Allora, buonasera a tutti. E ringraziamo innanzitutto la dottoressa Trevisan e anche i suoi collaboratori, in particolar modo Patrick, per questa ospitalità. E ci presentiamo. Ringrazio anche innanzitutto anche Alberto Sigismonti, che ha reso questa cosa fattibile, questo incontro tra noi e la Claudia Augusta. E ci presentiamo Letizia Guanno, lei è l'autrice di Odissea per casa, e Michele Fiocchi, che è il coprotagonista, diciamo, del suo diario, che vi presenterà lei. I Cortinas, qui in versione ridotta con Franz Weger e Fernando Nuresi. E Norma Rodrigues, l'autrice dell'altro romanzo. Io vi parlo un attimino, ve lo descrivo un attimo, mi presento un attimino. E in pratica io sono un esordiente e non ho, come al mio, diciamo, come esperienze precedenti un po' importanti, diciamo, è stato un testo teatrale per la Costa in collaborazione con la provincia di Bolzano. Abbiamo fatto un progetto storytelling, non so se qualcuno lo conosce, e tramite questo progetto si passava attraverso il giornalismo, la narrativa e poi anche il teatro, e siamo arrivati appunto alla stesura di un testo teatrale per lei, che lei ha portato in Teatro Bolzano e ha avuto un successo discreto, anzi decisamente un successo è stato. E il mio romanzo è un romanzo di gentilezza, cioè io amo descriverlo così più che romanzo d'amore, perché è un incontro tra le persone e parla appunto di gesti gentili tra gli esseri umani. E in sostanza ci sono cinque personaggi. Uno è la ragazza Chiara, che perde il suo treno volutamente e decide di prenderne uno a caso e finisce a Catania e vuole un po' dimenticare il suo passato, e per questo fa questa pazzia, diciamo, no? E a Catania incontrerà Maria, che è una signora anziana che la ospiterà in casa sua. E è una pianista famosa, e è una donna solida e saggia, e che ha un figlio e che nasconde un po' dei segreti, e si nasconde dietro una facciata un po' cinica, e un po' come facciamo un po' tutti noi, anche ogni tanto mettiamo delle maschere. E però in realtà è una persona tenera e dolce anche lui. E poi incontrerà anche Siero, che è la madre di Andrea, che dà il nome al titolo. E questa donna è una donna istintiva e intuitiva e molto sincera, disponibile, si fida delle persone, mentre Chiara è totalmente l'opposto, è una persona molto chiusa e anche timida e riservata. E poi Andrea è un bambino, e questo bambino è speciale per la sua tenerezza, che non esprime tramite parole ma tramite i suoi gesti. E adesso passo la parola a Letizia, che racconterà un po' del suo libro e poi andremo avanti. Beh, intanto benvenuti a tutti voi. Mi presento, io anche per me è un esordio, il mio libro è il mio primo libro. Non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere un libro. È nato un po' per caso, nel senso che a un certo punto io mi occupo di teatro, faccio anche l'insegnante, faccio 3.000 cose nella mia vita, e ho incontrato quest'uomo, che è il mio compagno, e ci siamo trovati in un momento buio, economicamente parlando, e a un certo punto abbiamo cominciato a fare teatro in casa. Andiamo nelle case, nelle corti, in tutti i posti inimmaginabili dove si può fare teatro, e niente, risolviamo un po' la nostra crisi economica. Per una questione di marketing comincio a fare delle mail agli amici in modo da invogliarli a chiamarci. Da queste mail cominciano ad arrivarmi delle risposte, dei feedback delle persone. Dicono: ma sai che scrivi bene? Ma sai che potrebbe diventare un libro? E così è nato il libro. E quindi questo è un diario di come è nata la nostra avventura di teatro in casa, e mescolato un po' i miei pensieri alle mie avventure e disavventure. Anche ci sono tutte le fotografie di tutti i posti dove siamo stati, delle persone che abbiamo incontrato. E niente, è questo un po' il mio esordio come scrittrice. Io appunto mi occupo di teatro, faccio l'attrice, sono anche attiva come regista, operatrice nelle scuole, faccio lavoro per Teatracchi, che è un'associazione qui di Bolzano. Faccio anche la maestra e quindi niente, direi che possiamo cominciare la serata in questo modo così variegato, con musica, letture e teatro. Io mi aspettavo, sai, da te una risposta come il po, invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi miei, gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo, tu in ogni ambiente un figurone, ancora una risa provvisa, ma che fortuna quella di portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione, ahimè, si rifugiva dei miei, gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Ti ho poi rivista la TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario sopra blu, solite pose, un cliché déjà vu. Dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo hai seppellito di niente. Vi consiglia una camera in affitto presso una signora anziana e vedova. Allegria. Vidi il nome sulla lista, Maria Privitera. L'appartamento era situato in centro, proprio dietro il Duomo. Il mio zaino era strapieno degli ultimi scorci del mio passato e pesava, sia per il contenuto che per quello che rappresentava. Malgrado ciò, mi avviai a piedi, cartina in mano, seguendo le indicazioni della signorina Info. non era così distante, in una ventina di minuti riuscii a raggiungere il posto. Da fuori la casa sembrava una catapecchia, ma mi erano sembrate tutte così lì, tutte grigie di smog, neanche fosse Milano. Percorrendo la strada avevo osservato i palazzi gustandone l'architettura e disprezzandone il grigiore e il degrado. Mi ero ripetuta, questo ristrutturandolo sarebbe fantastico, a questo basterebbe sistemare i balconi. Oppure immaginavo tutti quei palazzi colorati in modo diverso, un po' come le case che avevo visto in Olanda. Chissà che risultato originale ne sarebbe uscito dall'accostamento di colori forti o pastello e architettura barocca. Suonai al portone sulla strada. Era tutto in legno intarsiato, un'arco a vetrata sopra. Privitera. Chi è? Mi manda l'azienda turistica. Quinto piano. Beh, il portone si aprì. L'antrone era ampio, non c'era ascensore. Le scale salivano protette da un parapetto in ferro battuto lavorato minuziosamente. E la luce del sole, ormai avviato il tramonto, filtrava dalla vetrata, illuminando a sprazzi i primi scalini di marmo antico. Mi sembrò che le caratteristiche della facciata esterna del palazzo si riflettessero anche all'interno. Splendida architettura, degrado. Lo zaino pesava duro come un macigno ormai. Al quinto piano mi aspettava una signora anziana, nascosta dietro la porta aperta, con la testa che usciva dalla fessura. «Buonasera», le dissi ansimando. «Buonasera», mi rispose aprendomi completamente la porta. «Venga, venga, le faccio vedere la stanza, così mi dice se le va bene». In quel momento mi sarebbe andata bene anche una capanna piena di scarafaggi, tanto ero stanca. Avevo bisogno di una doccia e di un letto, forse qualcosa da mettere tra i denti, ma quella poteva aspettare, come spesso ultimamente. La seguì per il corridoio largo forse 3 metri, il soffitto molto alto. Tutto pulito, bene. Seguimmo una L, salimmo delle scale. Ad un piccolo disimpegno aprì una porta mentre ancora sostavo al suo fianco, senza poter vedere all'interno. Una luce arancione e calda si espanse sul pavimento, sulla signora, sulla parete opposta, nell'aria. In quell'istante ebbi la certezza che quello era il posto per me. Das große Feuer. da menga, metti Messer den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und ward geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Und die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Il 25 luglio 2012, Faenza. Torniamo a Faenza, da dove siamo partiti a metà giugno, così rivediamo anche Petra e Savio. Anche se a rigor del vero c'è stata un'anteprima a Martignano, Trento, all'inizio di maggio, da Luca, il compagno della mia amica Laura. Fare lo spettacolo in casa, nei salotti, è sempre un esercizio di adattabilità, anche all'aperto, ma al chiuso di più. Come risolvere se non c'è un angolo o una parete libera? Come fare tra porte, finestre e scale? Come integrarle in un racconto epico come l'Odissea? A casa di Luca avevamo sfruttato l'angolo tra la stufa legna in muratura e la finestra. La tenda della finestra era diventata la vela della nave e un portacandele appena regalato è stato requisito per la candela di Tiresia, il cieco indovino. A Faenza troviamo, a casa di Alessandro, una scala che porta al piano superiore e una credenza. Usiamo la scala per l'apparizione di Ulisse, una nuova versione di Wanda Osiris o Marilyn Monroe. Per fortuna Ulisse non ha i tacchi. Copriamo la credenza con un lenzuolo matrimoniale. La casa di Alessandro ci accoglie già da qualche giorno prima. Michele e Alessandro non si vedono da 12 anni. Nell'anno 1985 avevano lavorato insieme nel teatro di Ventura, due attori particolari che non fanno a gara per raccontarsi le proprie gesta, le proprie conquiste. Michele racconta di come sia nato questo tour. Dopo un anno di assenza di laboratori nelle scuole e spese straordinarie per la macchina, un incidente con la macchina di suo figlio e ciliegina sulla torta, l'ennesimo furto con scasso dalla macchina, giacca di pelle con portafogli e documenti, è scattato qualcosa. Dal fondo si ritorna sempre a galla. Dopo un'ora dal furto di primavera ha scritto e mandato le mail dell'Odissea nello stivale. Quando chiediamo ad Alessandro cosa sta facendo, ci dice: niente. Non sappiamo come reagire. Niente. Che vuol dire niente? Mi lascio il tempo per capire. E il suo niente è un niente molto operoso. Alessandro ha una voce molto potente, parla con cognizione di causa, calmo e riflessivo, canta mentre cucina. La canzone della prima sera era un po' depressiva, ma ben presto lascia il posto a canzoni più allegre. Ti amo, ti amo, ti amo. C'è Anna, sua moglie, una vera romagnola, accogliente e solare, e i suoi figli Elisabetta di 12 anni e Edoardo di 10. Cavolo, ma altro che mulino bianco, questa famiglia è meglio. Il niente di Alessandro comprende occuparsi dei suoi figli e della casa. Ci cucina cose prelibate e dà lezioni a un bambino che viene la mattina. Tutta la famiglia legge moltissimo, giocano a carte e non ho mai sentito una parola di troppo. Non litiga nessuno e si parla di tutto. Ancora una volta mi capita di vedere cose che non credevo esistessero. L'armonia di questa casa è contagiosa anche quando viene invasa da altri 5 nipoti. Adesso vi volevamo presentare un piccolo estratto dello spettacolo Ulisse che fa Michele. potrebbe essere una casa, e quindi questo spazio va benissimo. La storia, in realtà, non comincia dall'inizio del viaggio di Ulisse, comincia con suo figlio Telemaco, che affronta i principi troci pretendenti al trono del padre e alle nozze con la madre. Penelope. Non è più un ragazzo, Telemaco. Non ha mai conosciuto suo padre. Era ancora in culla quando Ulisse è partito per la guerra. Ma di lui parlava spesso sua madre. Perciò ha sentito crescere dentro il coraggio per partire alla ricerca di questo padre da tanto tempo lontano. I discorsi li intende. Insieme al desiderio di partire. Ha sentito crescere dentro il coraggio. Perciò decide di convocare l'assemblea del popolo di Itaca per domandare giustizia. Itacesi, ascoltate! Doppia sciagura è piombata sulla mia casa. Non solo ho perso il nobile padre che come un padre regnava su voi tutti, ma mia madre, contro la sua volontà, è forzata dai suoi pretendenti. Questi mi vengono in casa, sgozzano bovi, floride, capre, bevono il vino lucente senza pensiero, divorano impunemente gli averi di un uomo le cui ossa forse l'onda del mare già rotola. Ma se lo vedessero tornare qui in Itaca, chiederebbero agli dei di essere più lesti di gambe piuttosto che ricchi d'oro o di splendide vesti. Ehi, Telemaco, arringatore, vuoi calunniarci? È tua madre che ci illude. Di giorno tesse la tela dicendo: mi sposerò quando l'avrò terminata, per poi disfarla a nottetempo. Sappiamo tutti che noi non ce ne andremo. Ti conviene che tua madre si sposi al più presto, se non vuoi che tutto ti sia divorato. Eurimaco, Anfinomo, vedo una gran sciagura abbattersi su voi, pretendenti. Ulisse non starà ancora molto lontano, anzi, già forse è vicino, già semina strage e morte tra voi tutti. Vecchio indovino ciarlatano, le tue predizioni vai a fare ai tuoi figli. Non capiti loro qualche guaio in futuro. Ulisse è morto da un pezzo. Fossi morto anche tu, non diresti sciocchezze che incitano Telemaco all'ira, tanto peggio per lui, perché noi nessuno temiamo, nemmeno Telemaco, che sei un gran chiacchierone. Io non ce l'ho con i pretendenti, ce l'ho col resto del popolo. Ma come? Delle state lì muti, nessuno che osi parlare contro di loro. Costringeteli a smettere, voi siete in tanti, loro sono i pochi. E chi? Chi oserà mettersi contro di noi? Noi siamo in 100 e bene armati. Via. Sciogliamo questa assemblea, tornatevene a casa. E se anche Ulisse in persona volesse tornare, ben poca gioia ne proverebbe la donna del suo ritorno, perché qui troverebbe morte ingloriosa. Morte ingloriosa. Voglio darti un consiglio. Allestisci una nave da 20 rematori, la migliore che c'è, e parte in cerca del padre che da tanto tempo è lontano. Recati a Pilo e interroga il divino Nestore, e di là vai a Sparta dal biondo Menelao, che fu l'ultimo a vedere. Non hai più l'età per cose da ragazza, devi essere forte, così acquisterai gloria tra i posteri. Ma Ulisse non è né a Sparta da Menelao, né a Pilo da Nestore. È approdato sulla riva della terra dei Feaci, genti giuste che navigano il mare, per cui ogni straniero è un ospite sacro. Viene raccolto come un naufrago dalla principessa Nausicaa e condotto a cospetto di re Alcino e della regina Arete. E lì Ulisse si racconta: sono Ulisse, figlio di Laerte, per tutte le astuzie compiute dagli uomini, abito in Itaca, da 20 anni ne sono lontano. libro è antico. Chi mai tra i mortali potrebbe così narrare? Io non te lo voglio sapere, non sai come. Il cavallo di legno, un astuto, ma nella pancia di quel cavallo, io, antico, io bene, Menelao, 12 soldati tra i più forti. Salivò. Un dio disperse gli Achei per il mare e Zeus meditò doloroso ritorno agli argivi, perché non erano stati tutti né giusti né saggi. Pippo, l'aspettavo seduta ad un tavolino nascosto dietro un separatore in legno. Ogni tanto allungavo la testa verso la porta d'ingresso per vedere se entrava. L'uggiosità di quelle giornate non sembrava dare tregua. Mi incantai a guardare la pioggia che scendeva a catinelle dalla finestra accanto a me, con i gomiti appoggiati sul tavolo. Studiavo il percorso dei rivoletti d'acqua lungo i marciapiedi che andavano a infilarsi nel tombino. Nelle pozzanghe si formavano bolle d'aria e ricordai quanto mi ero spaventata da bambina quando mi dissero che quello era un segno del diluvio universale, che ci sarebbe stata così la fine del mondo. «Ti sei imboscata qui dietro?» Mi voltai sorpresa, mi ero già dimenticata di lei così assorta nei miei pensieri. «Ehi, ciao!» Lei si inchinò, sussurrandomi ciao, mentre mi dava un bacio sulle guance e mi abbracciava con un braccio soltanto. Nell'altro teneva un sacchetto di spesa. Sedette di fronte a me dopo essersi tolta l'impermeabile e aver appoggiato tutto sulla sedia rimasta libera. «Allora, raccontami, come ti sei sistemata, come ti trovi, che lavoro intendi trovare? Andrea, come lo hai sistemato?» Thank you. mai hanno stregato il pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu, mi sembra il massimo. Ma non siamo noi, no, non siamo noi a fare il cinema. E le comparse, sai, non ci hanno un pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu, mi sembra il massimo. Settembre 2012, Bosisio Parini. Ecco. Qualche volta da replica nasce replica, ed era proprio questo che ci auguravamo, che da ogni spettacolo ne nascesse un altro, perché allo spettatore nasce la voglia di portarlo in casa propria, perché il lavoro è di valore, perché si creano nuovi modi di stare insieme. Metti un allievo dotato che vede Ulisse e dice: sì, vorrei organizzarlo anch'io, ma non ho posto a casa mia. Allora si attiva, mobilita amici: tu che hai un bel giardino, possiamo farlo a casa tua. Ma se il padrone di casa non è convinto, se non ha visto l'Ulisse, avrà mille scuse. Ma il nostro amico, allievo in passato di Michele, è uno dei suoi numerosi corsi, Marco, non si arrende. Ci tiene in ballo per un po' di tempo, per una data, poi per un'altra, ma è convinto che si farà. È un ragazzo simpatico, Marco, ironico e creativo, coinvolto in mille attività, dal culinario al teatrale al musicale. Si fa il 16, domenica. Dove? Non ci posso credere. Marco e i suoi genitori fanno parte di un'associazione di canoisti, Canoa Club di Bosisio Parini. Domenica c'è la festa del club, si inaugura il nuovo pontile. Ebbene, è proprio su questo pontile che Ulisse danzerà la sua Odissea. 8 metri per 3, basculante sull'acqua. Questo Marco vince il premio Luogo più strano per la rappresentazione. Michele è entusiasta. Lo spazio è sufficiente. Il lago per Michele è sempre magico. Michele lacustre, si è dimenticato il costume e gli occhialini, non potrà fare il bagno. Io sono preoccupata per la statica, ma Michele no. È come un bambino che può provare le montagne russe. C'è il sole settembrino che fa da faro proprio a favore di palco. I soci del club sono impegnati nel buffet e anch'io ho un certo languorino. Assaggiamo. Da allestire c'è ben poco. Le casse acustiche le ha preparate Marco. C'è anche un tavolino per me con la centralina. Requisiamo dal buffet le cibarie per la scena. Appoggiamo i bastoni e il fellizzo sul pontile e Michele si ritira in un prato vicino. Io mi annoio un po' tra i salatini e il salame. Ma questo qua lo fa per mestiere? Marco risponde di sì. E riesce a vivere di questo? Non ascolto più la risposta di Marco, ma io mi chiedo io stessa: riesce a vivere di questo? Mi viene in mente un film di parecchi anni fa, Il pranzo di Babette. Una cuoca parigina si rifugia in un paesino sperduto in Danimarca e quando riceve un'enorme eredità organizza una cena sublime per i suoi compaesani. Fa arrivare cibi costosissimi, spende tutto per quella cena. Alla fine dice: «Non ho più denaro, l'ho speso». Una donna le risponde: «Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni». Ma lei ribatte: un artista non è mai povero. Adesso facciamo un pezzettino di Coccodrilli. È l'altro spettacolo che portiamo in giro, che descrivo sempre nel libro. È tratto da una storia vera, tratta dal libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Che magari c'è. Che magari c'è. Probabile. C'è in biblioteca. Inizio con la musica? Sì. Ok. Questa è la storia di un viaggio fatto da Oriente a Occidente, nato per desiderio, e si nasce da un fatto, per giuramento. La notte in cui insieme arrivarono in Pakistan, nel Samawat, si sistemarono a terra per attendere la sera. Poi la mamma gli prese la testa e si era avvicinò al tetto molto molto più forte del solito. Tre cose non devi mai fare in agli altri nella vita. Ce ne sono che hanno un odore, un sapore buono e ti sussurrano che ti sapranno fare stare meglio di quanto tu non potrai mai stare senza di loro. Qualcuno farà del male ai tuoi ricordi, ai tuoi affetti, insultando Dio, la terra, gli uomini. Promettimi che la tua mano non si stringerà mai intorno a un coltello, una pietra, un sasso, forse solo anche un mestolo di legno. Se quel mestolo lo vorrai usare per offendere un uomo. Te lo prometti, Nayat? E Nayat lo prometti? Terza è rubare. Quel che è tuo ti appartiene, quel che non è tuo no. I soldi per vivere li guadagnerai lavorando. Non trufferai mai nessuno, sarai onesto, ospitale con tutti. E negli altri prometti. Promesso. Poi la mamma cominciò a parlare dei sogni e della luna. Senza mai smettere di accarezzare Nayat, parlava con voce calda e strana, e saldava le mani come braccia. Diceva che bisogna sempre avere un desiderio davanti agli occhi. Difficile pensare, mentre parlava con lo sguardo rivolto verso la finestra, difficile pensare che egli stesse dicendo Io questa scena la vedo tantissime volte, ma mi fa sempre un po' di emozione. Sei bravissima. Sua madre tornò dopo 3 giorni. Dopo 2 settimane Angelo non si era fatto sentire ed io cercavo di non pensare. Il nuovo lavoro mi aveva assorbito fisicamente e mentalmente. Volevo dare una buona opinione di me, così preoccupata di non sfigurare quale lavoratrice del nord. Ogni tanto il mio capo mi diceva, prendendomi in giro: calma, se la prenda con comodo, tanto la pago lo stesso. Io gli sorridevo e riprendevo a disegnare al mio computer. L'ufficio non era male, arredamento nuovo, colleghi simpatici, il capo mi sembrava un tipo in gamba. Mi era mancato il mio lavoro e per fortuna non si occupavano solo di tubazioni ma anche di edilizia. Vista la mia esperienza, mi misero subito a lavorare a degli esecutivi di un progetto appena concessionato. Mi era sempre piaciuto disegnargli, calcolare le pendenze del tetto, i metri quadrati minimi, dettagliare, osservando le norme comunali. A pranzo mi vedevo con Siero da Pippo e questo mi rincuorava. La sua semplicità, il suo entusiasmo, la sua simpatia, la sua esuberanza mi facevano stare bene. La sera rientravo sperando di trovarmi Angelo di fronte, ma dopo un po' non ci feci più caso alla sua assenza. Dalla mia camera sentivo Maria che suonava Debussy prima di cena e spesso mi veniva voglia di aprire quella porta e correre di sotto per ascoltare meglio e ringraziarla e conversare con lei e la sua intelligenza, per chiedere del concerto di Vienna o di suo figlio. Ma mi trattenevo. Avevo capito che voleva domandarmi qualcosa ed io non avrei saputo cosa risponderle. Perciò mi costringevo a mangiare panini per non scendere in cucina, fino a quando una sera bussò alla mia porta ed io aprii. Dicembre 2012. Risaliamo nel Mugello, dove ci aspetta Francesco, toscano ruspante, buddista verace, anima generosa. Francesco ha organizzato il Kaikan. Il Kaikan è il centro dove si recita la pratica buddista, con un palchetto costruito interamente da lui. Sotto il gonzon, Michele potrà raccontare la storia di Enayat, rialzato di 50 centimetri. Così tutti potranno vederlo, tutti e 60. C'è anche una lista d'attesa, ci dice Francesco. Ecco, non mi spiego come mai alcuni riescono a coinvolgere tantissima gente, altri padroni di casa invece fanno molta fatica ad avere le presenze minime. Sarà un problema di relazioni? In quest'epoca le relazioni sono sempre più importanti. C'è chi ha amicizie che durano da più di 30 anni, come mio cugino Piero e il suo amico Marco, che dopo tanti anni ancora discutono su essere o non essere vegetariani e si vogliono un gran bene. E c'è chi invece si chiude e si relaziona solo superficialmente con tutti, isolati, soli. Che tristezza. Le relazioni umane sono una cosa complicata, molto complicata. Non c'è niente di più bello che aprirsi sinceramente agli altri con i propri pregi e difetti, sogni e speranze, unite negli intenti. Quando si trova questo, io provo un'immensa gratitudine. In questa avventura di teatro domestico ho avuto la grande fortuna di incontrare un sacco di persone, allacciare conversazioni interessanti, scambiare idee e racconti di storie umane come mai nella mia vita. È come essere saliti su un nastro trasportatore più veloce e mi sembra di vivere più intensamente. Francesco mi racconta di quella volta che, grazie a Namyoho Rengekyo, invocazione dal titolo del Sutra del Loto, è riuscito a passare la frontiera senza documentazione in regola. Piccoli miracoli che spesso sento all'interno dell'ambito buddista. Il mio miracolo è senz'altro è Michele. Michele si riscalda sul piccolo palco e aspettiamo l'ora fissata. Sono attese persone importanti, VIP. Infatti arrivano tante persone e ben presto la sala si riempie. Carlina Torta è un'attrice che Michele seguiva quando era ragazzo al Teatro del Sole a Milano. Lei vive qui ed è amica di Angela Finocchiaro. Anche lei arriverà. Bisogna infinocchiare la torta e intortare la Finocchiaro. È la battutaccia di Michele, ho riso a crepapelle. Le attrici VIP sono in prima fila e con un certo sforzo di cervicale seguono attente, naso in su, a guardare Michele e spero non gli parta qualche parola umida. Ecco, noi abbiamo concluso, concludiamo con un brano musicale e poi se volete fare qualche domanda siamo qui. Brano E via con me di Paolo Conte. It's wonderful, wonderful, good luck, my. Grazie Franz, grazie Fernando. Grazie. Grazie Michela. A voi. Grazie a tutti. Adesso non so se avete qualche grazie domanda. Se no, spero grazie vi siate un po' divertiti o perlomeno non annoiati. Ci sono i libri grazie in vendita se volete. Ecco. Eccola. Speriamo ecco di avervi interessato. Si voleva arrivare, signori, signore. Altrimenti grazie lo stesso. Come vi dico, fate il teatro nelle case? Facciamo il teatro nelle case. Cioè, io sì, vi invito a casa mia con un gruppo di persone. Sì, esattamente questo. Così. Basta uno spazio anche più piccolo di questo, perché lui ha bisogno di 2 metri per 2, non ha bisogno di tanto posto, e il posto per gli spettatori, naturalmente. E andiamo nelle case. Basta chiamarci e noi arriviamo. Questo posto? E questo magari ne parliamo in privato. No, organizzativamente parlando, le faccio un esempio. Noi l'abbiamo fatto a casa nostra insieme a degli amici, abbiamo invitato 15-20 amici che stanno comunque in un salotto di 16-20 metri quadrati e non serve di più. E abbiamo fatto un piccolo buffet, una robetta da niente, e abbiamo detto a tutti i nostri amici: venite, siamo felici di rivederci, però a fine serata c'è un contributo da dare agli artisti e ognuno ha pagato il suo, si sono tutti divertiti, è stato bellissimo rincontrarsi con gli amici in un modo diverso e è stata proprio una bellissima serata, un modo diverso per vedersi e per festeggiare. Una cosa mi è piaciuta, l'altra cosa da Jackie Lessa mi è piaciuto e che ha citato il pranzo di Babette. Io è un film che mi è rimasto impresso moltissimo. Anche la novella è bellissima, sì, sì. E il film l'ho guardato non so quante volte, l'ho guardato e ogni volta ci trovo qualcosa, sì, di, sì, speciale proprio, sì, è bellissimo, proprio un film molto, è un molto bello, bellissimo film. Infatti aveva vinto a Venezia il premio in quegli anni lì, sì, sì, era veramente bello. Prossimi libri? Vediamo. Bella questa. Lei è più scrittrice di me, devo dire. Il mio prossimo sarà sicuramente di montagna. Qualche idea in montagna? Sì, mi sono dedita all'alpinismo, ma non sono un'alpinista. Non riesco a finire un libro che ho cominciato all'inizio dell'estate. Ah! È un libretto così. Veramente. Provi a cambiare, prendere il mio. Si legge in un attimo. Anche questo si legge in un attimo. Comincio altre cose, faccio. Se volete vedere anche le foto, qua ci sono le foto di. Lo prende e poi lo legge subito e con la scusa e dice: no, adesso lo posso dare indietro. Finito troppo presto. Per esempio, ho letto dello spettacolo sul pontile, qua ci sono delle bellissime foto. E forse non nel fatto. L'hai detto che la gente era in camera? Ah, forse non c'ero arrivata, no. Lo dico dopo. Il pubblico qui era in canoa. C'era un circolo di canoisti, sono messi in canoa davanti al portiere. Il posto più strano dove l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto anche in una fabbrica. Si chiama Teatro Chi? Come? La vostra associazione si chiama Teatro Chi? No, no, no, no, non siamo un'associazione, Michele Fiocchi e io. Meglio, faccio parte. Lui fa parte del Teatro La Ribalta. Teatro La Ribalta, Accademia Arte della Diversità. Però questi monologhi sono più fluidi, sciolti. Capita anche di andare in teatro. No, lo ogni tanto capita. Ogni tanto. Anch'io ho visto diversi spettacoli in casa e cioè, è proprio una cosa bellissima, perché uno si sta insieme a gente che si conosce, no? E due si vive proprio a pelle il teatro. E anche io ho due piccoli bambini e anche per loro è fantastico vederlo, per esempio, non solo per gli adulti, no? Perché poi in un ambiente di casa è facile avere anche i bambini. Sì, possono... Bella squadra e tutti giocano. Il mio recapito dove ci si trova? Le lasciamo un biglietto da visita, sì, se ce li hai. Qui, questo è qui. Ma siete a Bolzano? Noi siamo di Merano. Di Merano? Sì. Siete in Merano? Sì. Anzi, no, scusate, è proprio nella giacca. Fate all'interno della giacca. Fai tu. Io sento, non si sa mai. E comunque vi abbiamo voluto presentare questi due libri un po' perché siamo due amiche, ma perché sono stati pubblicati dalla stessa casa editrice, che devo dire non è così facile pubblicare in Italia ultimamente. Io prima di pubblicare ho avuto 3 proposte di case editrici, ma sempre con il contributo, cioè avrei dovuto pagare per pubblicare. Finché ho detto no, io non me lo posso permettere di pagare per pubblicare un libro, io aspetto finché trovo una casa editrice seria che mi pubblica, e l'ho trovata, e anche Laura ha pubblicato con la stessa casa editrice, una casa editrice molto seria, e ha creduto in questo progetto e anche in quello di Laura. Fabbrica dei segni, sì. È una casa editrice che anche occupa soggetti svantaggiati, insomma è una casa editrice veramente seria. Per quello, oltre a essere amiche, insomma, facciamo le presentazioni insieme anche per questo motivo. L'anno prossimo, il prossimo spettacolo è sempre preso da un libro. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, allora. Buonasera.